Noi gestiamo il parco dal 2010, quindi questo per noi è l'ottavo anno, però devo dire che comunque quest'anno per noi è un anno un po' di svolta. Abbiamo affrontato soprattutto negli ultimi anni delle difficoltà, non è stato semplice stare in Montagnola, ma credo che quest'anno abbiamo lavorato davvero bene con un progetto collettivo, un progetto che coinvolge tante realtà, tanti attori e che ci ha permesso di realizzare una rassegna che durerà da giugno a settembre. Al momento ci sono già in programma più di 100 iniziative, ma probabilmente se ne aggiungeranno altre. Ci sarà spazio per la cultura, ci sarà spazio per il cinema, ci sarà spazio anche per lo sport, questa è la prima novità, diciamo, di quest'anno. E poi ci saranno molte attività per bambini, organizzate anche in collaborazione col Comitato Free Montagnola. Quest'anno abbiamo anche il sostegno da parte di Ascom e di Emilbanca, quindi diciamo che quest'anno è stato proprio messo in piedi una rassegna che punta attraverso la socialità, attraverso la cultura, attraverso lo sport a rendere il parco un luogo più sicuro, nel senso di più accogliente, più bello, più partecipato. A proposito di sicurezza, come l'avete gestita per appunto la sicurezza in Montagnola quest'estate? Ma in realtà noi non abbiamo gestito nulla, nel senso che le nostre attività sono quelle sociali, quelle culturali. Noi siamo un'associazione che si occupa di questo. Abbiamo sicuramente, ci siamo confrontati anche con la prefettura, con l'amministrazione, perché effettivamente la situazione è abbastanza complicata, però questa è una partita non gestita direttamente da noi, però è chiaro che comunque ci vuole necessario un supporto delle forze dell'ordine, ma noi facciamo quello che possiamo fare con le nostre attività, cioè il nostro obiettivo è quello di rendere sicuro uno spazio attraverso delle attività culturali. Sappiamo che questo non è sufficiente, credo che sia necessario che ci sia una sinergia Tra l'amministrazione, tra le forze dell'ordine, però comunque noi ci portiamo i nostri contenuti dentro al parco. In questi giorni ci sono state voci, ovviamente, che avete avuto dei problemi con la sovrintendenza, sono stati risolti? Sì, sono stati assolutamente risolti. In realtà noi aspettavamo semplicemente un ok, soprattutto per quanto riguarda tutta la parte sportiva, che era quella che ci preoccupava un po' di più, perché è una novità assoluta, è da anni che non si svolgono comunque allestimenti sportivi all'interno del parco, e per cui eravamo abbastanza preoccupati, ma alla fine diciamo che è andato tutto bene, l'ok della sovrintendenza è arrivato ed entro metà giugno all'interno del parco sarà allestito un campo da green volley, un mini campo da basket e un mini campo da calcetto, per cui insomma ci sarà anche spazio per queste attività. Tutte le iniziative saranno gratuite? Tutte le iniziative saranno assolutamente gratuite, anche per esempio le attività sportive, quindi anche quelle, per esempio il campo da basket potrà essere utilizzato liberamente dalle persone, dai ragazzi, per cui sì, tutto assolutamente gratuito.